ancora il tempo. Il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna. C'è ancora una canzone, bagnata un po' nel vino. Mentre infuria la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. Le poltrone sono calde, stan lì seduti saldi, finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare dentro il quadro generale, che vorrebbero ma non possono ignorare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna. C'è ancora una canzone, caduta dalla luna. C'è sempre una canzone che non fa dormire. C'è ancora una canzone, ancora da sentire. Bilancia piega e non c'è via di fuga, e la giustizia non si spiega. Mentre è solo mare aperto e non si vede il porto, ed il futuro è un po' più corto. E sei un particolare che vorrebbero ignorare, e ci riescono se tu li lasci fare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna. C'è ancora una canzone, caduta dalla luna. C'è sempre una canzone,